La tristezza del battezzato, e lo siamo tutti, è la tristezza di non essere santo. Quindi un certo cristianesimo pressapochista, un cristianesimo all'acqua di rose, un cristianesimo che va, che viene a sbalzi, un cristianesimo superficiale, bigotto, fanatico, non ti libera da questa tristezza, anzi te la fa crescere. E questa tristezza a volte ti piglia proprio, ti strozza, perché tu hai tutte le fortune spirituali, se vuoi, puoi farti santo, puoi vivere un cristianesimo tutt'altro che superficiale o da bigotto, da fanatico, ma un cristianesimo profondo, radicale, che ti lega a Dio di un legame intimo e vitale. Finché il nostro legame con Dio non è intimo e vitale, noi siamo come le banderuole dell'aguglia del campanile, questa banderuola che si sbatte a seconda del vento. Banderuole senza consistenza e quindi senza soddisfazione, perché indubbiamente non c'è religione che si possa paragonare a quella cristiana cattolica, quanto al bene che porta alle persone singole e alle comunità. Non ce n'è un'altra, ma bisogna viverla sul serio, questa religiosità cristiano-cattolica. Se la viviamo in profondità, cioè con impegno massimalista, noi godiamo il paradiso in terra, perché abbiamo dalla nostra religiosità abbiamo tante motivazioni da sorridere anche a cattiva sorte, a sorridere anche quando altri si mettono le mani nei capelli e si dispera per cose da nulla. Noi non ci disperiamo neanche per cose grosse, altri si disperano per delle bagatelle, per delle cose da niente che fanno ridere i sassi. Cristianesimo profondo, quello che veramente instaura un rapporto, un legame intimo e vitale con Dio. Questo rapporto intimo e vitale si chiama santità di vita. E qui ci appelliamo ancora a Don Bosco, il quale quella sera ai ragazzi, ai suoi birichini, a volte erano anche discoli, raccolti dai marciapiedi delle vie della città di Torino, raccolti dalla miseria cavati su dal pantano, a questi ragazzi Don Bosco rivolge l'invito di farsi santi. Ma Don Bosco, ma non sa che ragazzi sono questi? Una certa parte non ha mai conosciuto papà e mamma, altri hanno imparato soltanto le bestemmie dal loro padre. Altri educati, pensate voi, a rubare, a farla franca. Li portavano via anche le lenzuola, venivano a dormire con la notte. E mamma Margherita, la mamma di Don Bosco, pronta, pronta a cavar fuori un paio di lenzuola, pronte. E al mattino sparivano anche le lenzuola. Qualcuno ha tentato anche di portarle via il materasso, ma non c'è riuscito. E a questa genia di ragazzi Don Bosco presenta il segreto della gioia. È volontà di Dio che ci facciamo santi tutti, noi battezzati, cresimati. E c'è un gran premio pronto nel regno eterno, nel paradiso, per chi si fa santo. E non è difficile, è facile diventare santi. Don Bosco, ma non ti sbagli, ma li conosci questi ragazzi? Hai mai sentito qualche loro ricreazione? Non hai mai sentito che bestemmie volano per l'aria? Che titolacci sporchi si danno l'un l'altro? Ma Don Bosco, non t'ha detto la mamma Margherita che t'han portato via come riconoscenza d'avergli ospitato una notte sotto un tetto? Ti han portato via anche le lenzuola? Ma Don Bosco non è un uomo dalle mezze misure. che concilia il bene col male, ciò che è perfetto con quello che è grottesco, ai ragazzi ha proposto la santità. Dio vuole che anche voi diventiate santi. È facile, e c'è un gran premio da conquistare facendosi santi.